Letture di Radio 24. È arrivato il momento che gli africani smettano di percepire la realtà soltanto attraverso il colore della pelle. Devono riconoscere, in egual misura, le proprie responsabilità in alcune pagine della storia. Così scrive il popolare scrittore congolese Alain Mabankou in un articolo pubblicato in esclusiva dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Parlando del suo ultimo libro, Il singhiozzo dell'uomo nero, Mabankou invita gli africani a superare il vittimismo per i torti subiti con la colonizzazione. L'identità è il risultato di incontri, scambi e incroci di culture. A questo proposito, ho constatato che in Europa esistono ancora certi africani convinti di avere un destino maledetto a causa di tutto ciò che hanno subito con la tratta dei neri e la colonizzazione. Di conseguenza, costruiscono la loro identità basandosi esclusivamente sulle loro disgrazie. Sintetizzo questo atteggiamento con l'espressione «il singhiozzo dell'uomo nero», diventata il titolo di un mio libro che chiama in causa sia gli europei che gli africani. Volevo capire le ragioni del disagio che regna all'interno del mondo nero nei rapporti con il mondo bianco. Le Sanglot de l'Homme Noir può essere considerato il seguito dei miei romanzi, dato che in Black Bazaar, Domani avrò 20 anni, o anche in Ver Cassé, mi sono sempre interrogato sulla condizione dell'uomo nero, sul suo destino in quanto individuo alle prese con un mondo che dipende sempre di più dai mezzi di comunicazione. Questa raccolta di 12 racconti si concentra sull'identità, le lingue africane, le dittature, l'immigrazione, l'indipendenza africana, il razzismo, la xenofobia e la condizione dei neri in Europa e negli Stati Uniti, partendo dalla mia esperienza personale, poiché sono nato in Africa, ho vissuto 17 anni in Francia e adesso vivo negli Stati Uniti. È arrivato il momento che gli africani smettano di percepire la realtà soltanto attraverso il colore della pelle. Devono riconoscere, in egual misura, le proprie responsabilità in alcune pagine della storia. La tratta dei negri fu un commercio certamente fonte di grande sofferenza. Infatti l'Europa ha strappato all'Africa i figli e le figlie per deportarli negli Stati Uniti, nelle isole e altrove. Molte città francesi come Nantes, Bordeaux, Le Havre si sono arricchite grazie al commercio di carne nera. Ma questo commercio vergognoso ha anche beneficiato della complicità di alcuni capi tribù del continente nero, un fatto storico che non deve essere taciuto, visto che i neri americani e gli abitanti delle Antille ce lo ricordano con una certa frequenza. Forse questo è anche la causa dei rapporti conflittuali tra i neri. D'altronde, il tema della colonizzazione deve essere affrontato dal punto di vista dell'alfabetizzazione, perché la colonizzazione ha confuso la coscienza africana. Oggi, per comunicare tra loro, gli africani usano le lingue degli antichi colonizzatori. Un senegalese e un congolese si capiscono soltanto se parlano francese. Di conseguenza, è necessario che gli africani si conoscano innanzitutto tra di loro, che imparino le lingue dei loro paesi o delle loro regioni in modo da creare rapporti nuovi, liberi da ogni filtro coloniale. Tuttavia, non è giusto deplorare uno scrittore africano perché scrive in francese, in inglese, in portoghese o in spagnolo. In Africa non è mai esistita una politica linguistica seria e strutturata, per cui quasi sempre gli africani sono approdati alla letteratura attraverso le lingue coloniali. Nello stesso tempo, molte lingue africane sono rimaste allo stadio dell'oralità e questo mi induce a pensare che noi africani, pur parlando le nostre lingue, siamo incapaci di scriverle. Un libro scritto in una lingua africana solleverà inevitabilmente il problema del pubblico di riferimento, poiché quale valore può avere una letteratura che non viene letta dalla popolazione a cui è rivolta? L'immigrazione, altra questione centrale, determina sempre di più le politiche europee. Oggi l'immigrato è visto come un nemico pubblico dalla maggior parte dei governi europei, ma l'Europa, durante l'occupazione nazista e anche molto prima di allora, ha avuto bisogno di immigrati per combattere guerre che non riguardavano nemmeno il continente africano. La Francia si fidava così tanto dei fucilieri senegalesi che furono loro a liberarla. Brazzaville, la capitale del Congo, negli anni 40 fu la capitale della Francia libera perché Parigi era occupata dai tedeschi. La maggior parte dei paesi europei devono il loro sviluppo economico all'immigrazione. Anche alla fine della Seconda Guerra Mondiale si è dovuto ricorrere all'immigrazione per ricostruire l'Europa. Nonostante ciò, oggi l'immigrato è messo all'indice e considerato una minaccia per l'equilibrio dell'Europa. Il singhiozzo dell'uomo nero è stato ben accolto in Francia, ma ha anche sollevato molte critiche spiacevoli, soprattutto da parte di coloro che non l'avevano letto. Io non intendo affatto negare l'importanza della storia, Non chiedo agli africani di voltare le spalle alla loro storia, non faccio l'apologia della cultura occidentale, non disprezzo il colore della pelle. Al contrario, voglio soltanto dire che non si può costruire un'identità sulle lacrime e sul rancore. Non si può passare tutta la vita ad avere un atteggiamento accusatorio, senza rimproverarsi dei propri errori o debolezze. A forza di parlare soltanto del passato, ci si dimentica di affrontare il presente. Voglio invitare gli africani a cambiare atteggiamento, a sviluppare quello che chiamo l'esistenzialismo nero, essere consapevoli che la volontà permette di raggiungere il proprio obiettivo e di andare oltre i pregiudizi. È perché si crede in un'idea che alla fine questa si realizza. La storia deve essere il punto di riferimento, ma il presente deve essere la priorità. E nel presente dobbiamo includere la nostra esperienza, le nostre migrazioni, i nostri scambi e infine i nostri rapporti con l'altro. Il mondo di domani non potrà più essere uno spazio chiuso, ma una casa aperta, una casa da cui si entra e si esce quando si vuole. Insomma, il singhiozzo dell'uomo nero sollecita l'autonomia del pensiero e rifiuta un'identità definita dal colore della pelle. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Alain Mabankou dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. La maggior parte degli esseri umani cerca la felicità nel possesso e nel benessere, ma con l'aumento della ricchezza non aumenta necessariamente anche il livello di soddisfazione. Nel libro Sii felice adesso, il filosofo indiano Osho illustra una chiave diversa per arrivare alla felicità e lo fa commentando i testi del mistico Ashtavakra, vissuto attorno al 5000 a.C. In uno dei suoi aforismi, Ashtavakra parla di come spesso il giudizio di noi stessi sia condizionato da quello degli altri. La sutra recita infatti: «Tu sei colui che osserva ogni cosa, colui che in realtà è sempre libero. La tua schiavitù sta nel fatto che vedi l'altro come l'osservatore e non vedi te stesso». Di solito percepiamo le nostre vite attraverso gli occhi altrui e usiamo gli occhi altrui per specchiarci. Così si dimentica colui che osserva e si diventa colui che è osservato. Qualcuno ti dice «sei bello» e qualcun altro ti dice «bello tu, ma guardati allo specchio». Entrambi i giudizi penetrano in te e creano un dualismo. Qualcuno ti dice «sei molto intelligente» e qualcun altro ti dice «non ho mai incontrato un idiota come te». Tu accogli entrambe le voci e in te sorge un profondo disagio, una profonda dissociazione. Ecco perché non hai alcuna certezza sulla tua identità. Hai raccolto una tale folla di opinioni. Ti sei guardato in molti specchi e ciascuno ti ha dato un messaggio differente. Gli specchi non inviano messaggi, proiettano soltanto ciò che sta di fronte a loro. Continui ad accumulare opinioni contrastanti e inizi a credere di essere l'insieme di tutte quelle opinioni in conflitto tra loro. Ecco perché sei sempre così scosso, così impaurito. La paura delle opinioni altrui si è radicata davvero in profondità. Gli altri cosa penseranno di me? Pensano forse che sono sciocco, oppure che sono immorale? Avendo dato al nostro essere la forma decisa dagli altri, ci preoccupiamo. Come mai le persone cadono nella trappola dell'adulazione? Perfino quando dici al più idiota tra gli uomini che è un genio, costui non ti smentisce, perché non ha la più pallida idea di chi egli sia. Ti ascolta e si modella su qualsiasi giudizio esprimi su di lui. Se diventi ciò che è osservato, sei un oggetto e perdi la tua anima. È difficile trovare un'anima in un leader politico, così come è difficile trovare l'anima in un attore. Sono diventati oggetti da guardare e vivono per essere guardati. Tutti i loro sforzi sono tesi a impressionare la gente, ad avere un bell'aspetto, a sembrare belli, ad apparire il migliore. I loro sforzi non hanno come fine diventare migliori, ma sembrare il migliore. Chi è diventato la cosa osservata è un ipocrita che si copre il volto con una maschera. All'esterno ha un ottimo aspetto, nella sua interiorità è solo marciume. Trascorrete la vostra vita stando semplicemente a guardare. Siete solo spettatori. Non amate, guardate gli attori che fanno l'amore. Non danzate, guardate i ballerini che danzano. Non cantate, ascoltate i cantanti che cantano. E siete sorpresi che la vostra vita sia caratterizzata dall'impotenza. Come potrebbe essere altrimenti se tutta la vostra energia vitale va perduta? Nella vostra vita non c'è movimento. L'energia non fluisce nel vostro essere. State seduti, come cadaveri. L'unica vostra funzione è guardare. Qualcuno continua a fare spettacolo e voi continuate a fare gli spettatori. Queste due tipologie abbondano nel mondo e sono interdipendenti tra loro. Quando una persona è riuscita a liberarsi dai ruoli di attore e di spettatore, non desidera più né esibirsi né guardare, perché ha compreso che mostrarsi ed essere uno spettatore sono solo trappole, falsità. Non avendo più desideri, raggiunge uno stato di distacco, la liberazione dai desideri. Adesso non le interessa affatto che qualcuno le dica «sei bello, sei buono, sei virtuoso». Se anche solo nel tuo intimo ti auguri che la gente ti veda virtuoso, sappi che sei ancora intrappolato nella stessa vecchia rete. Prova a fare questo esperimento. Stai guardando. Sei seduto sotto un albero e lo stai guardando. Continuando a guardare l'albero, gradualmente inizia a vedere te stesso che guardi l'albero. Prova questo piccolo accorgimento. Di solito la freccia della consapevolezza è diretta verso l'albero. Fai in modo che vada in entrambe le direzioni. Fai in modo che i frutti maturino in entrambe le direzioni. Dovresti guardare l'albero e vedere simultaneamente te stesso che guardi l'albero. Non dimenticare mai colui che osserva. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Osho, Sii felice adesso, trova la vera essenza della vita. Cairo Editore, 288 pagine, 14 euro.